Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi. Ancora presto, ma qualcuno ci starà già pensando. Parlo della pausa pranzo, momento della giornata in cui l'Italia si divide. C'è chi la fa al bar di corsa mangiando un panino, chi va in mensa, chi torna a casa, chi tira dritto, assolutamente insensibile alle richieste del suo stomaco, chi la usa per fare altro, non dico altro. Ma quello che conta, e mi piacerebbe sapere oggi, è come stiamo dopo questa pausa, non pausa che sia. Le ore del primo pomeriggio, sappiamo, sono molto delicate. A voi che cosa capita? Chiamateci per dirci cosa mangiate, se mangiate, e cosa succede dopo. Siete in forma? Scattanti? Assonnati? Appesantiti? Chiamateci, io come sempre aspetto le vostre storie, i vostri consigli. Nel caso possiamo anche provare a farci dare una mano dai nostri esperti per aggiustare un po' il tiro. Se dopo pranzo, ad esempio, non riuscite più a carburare, se avete problemi di digestione, se il vostro umore peggiora, siamo qui e nell'attesa delle vostre chiamate all'800 24 00 24 andiamo a sentire i risultati, lo chiamo sondaggio, della nostra Vox Populi. Se mangio il primo, mangio un contorno. Se mangio il secondo frutta. Questo è il mio set. Di norma è un piatto di pasta e accompagnato poi da un piatto di verdura. Condimenti, quello che offre qui, quindi olio extravergine di oliva, sale, è sul tavolo, e spezie, non so, c'è il pepe, il peperoncino. Mangio due pezzi di pizza con pomodoro e robe, insalata con i peperoni, poco olio, poco aceto, anche perché sto tenendo la linea, quindi da bere sono l'aranciata qua, esatto. Leggermente gasata. Qua. E di solito il secondo col contorno, pasta no, a pranzo mai, perché la mangio la sera. Anch'io secondo col contorno e poi, vabbè, c'è il cioccolato, io vivo di cioccolato, per cui non potevo non prenderlo. Allora, la pasta, la pizza, il secondo col contorno, 800 24 00 24, in studio con me il dottor Attilio Speciani, è tornato a trovarci, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, autore di numerosissimi libri, dottor Speciani, che da cui noi prendiamo sempre spunto. Intanto sempre buongiorno. Piacere. Buongiorno a tutti e quelli che ci ascoltano, assolutamente. Che cosa le dicono queste voci? Io trovo che questa è l'espressione tipica dell'Italia che sa arrangiarsi, nel senso che ognuno descrive il proprio pranzo, la propria pausa, come se fossero delle cose assolutamente positive, devo dire con un buon livello qualitativo comunque, questo indipendentemente da qualsiasi giustificazione, l'olio extravergine di oliva, il pomodoro, il cioccolato magari quello buono, cioè ci sono elementi per cui nonostante noi tendenzialmente in Italia si mangi male, però abbiamo un buon livello di sopravvivenza perché abbiamo per fortuna una buona qualità di prodotti e quindi riusciamo a mettere dentro delle cose positive. Devo dire che c'è una bella differenza a seconda di come uno poi deve viversi il pomeriggio. Certo. Perché il signore che si mangia due fette di pizza con l'aranciata, però dice leggermente frizzante, come se fosse un peccato, in realtà ha inserito una botta di carboidrati mica da ridere, tutto sommato, e quindi se deve fare un'attività molto attenta dal punto di vista mentale, forse qualche problema ce l'avrà. 800 24 00 24. Intanto noi chiediamo aiuto alla cronobiologia e cerchiamo di capire di che cosa ha bisogno il nostro organismo tra le 12 e le 15, per quale attività è più predisposto. In linea con noi abbiamo la professoressa Franca Carandente, ordinario di medicina interna all'Università degli Studi di Milano e specialista in cronobiologia. Buongiorno professoressa Carandente. Buongiorno. Allora professoressa, di che cosa ha bisogno il nostro organismo in queste ore centrali della giornata? Ha bisogno di energia, è il momento in cui noi comunque, anche dopo mangiato, dobbiamo essere attivi. E nel distribuire i nostri alimenti nell'arco della giornata dobbiamo fare attenzione al fatto che il momento in cui abbiamo bisogno di energia è soprattutto di giorno, alla mattina e naturalmente anche nel pomeriggio, e mentre invece alla sera abbiamo meno bisogno di questo di apporto calorico, perché poi andiamo a riposare e l'apporto calorico alla sera è l'apporto che ci fa accumulare maggiormente. È un po' una zavorretta, insomma. Esatto, esatto. Si piazza. Si piazza lì. Allora, la cronobiologia studia, diciamo, l'associazione tra, per esempio, il tipo di alimento e il momento della giornata, e poi con nozione comune, naturalmente, che i carboidrati siano la fonte principale di energia, l'energia più immediata, l'energia pronta all'uso. Quindi sarebbe corretto, da un punto di vista alimentare, riservare la maggior quota di carboidrati alla prima colazione. Certo. Perché noi dopo abbiamo molto da fare e dobbiamo usare tutta questa energia pronta. Possiamo poi invece utilizzare per il pranzo, forse più sensatamente, una mescolanza di carboidrati, non tanti perché ci portano sonnolenza. Il carboidrato è quello che stimola la sonnolenza, e allora usiamo un piccolo pasto, magari se riusciamo a mangiare abbondantemente al breakfast alla mattina, riduciamo la quantità a mezzogiorno prendendo un po' di carboidrati e un po' di proteine. Professoressa Carandente, ma oltre che per rifornirsi di energia, queste ore della giornata che cosa ci dicono? Il nostro organismo è particolarmente capace o predisposto a, non so, pensare, muoversi, elaborare delle informazioni? A livello del cervello, ad esempio, che cosa succede lasciando da parte la dieta? Allora, guardando solo il cervello, dobbiamo considerare una cosa fondamentale: non siamo tutti uguali. Grosso modo, noi abbiamo due grosse distinzioni di tipologie umane: il tipo mattutino e il tipo serotino. Sì. E una gran quantità di tipi intermedi. Però tendenzialmente ognuno di noi è più mattutino oppure è più serotino, nel sì. senso che riesce a carburare meglio la mattina, quindi non so se deve fare un'attività particolare fa meglio la mattina, altri invece preferiscono stare alzati alla sera e lavorare di più la sera, avere attività più intense. Sì, i famosi gufi all'odole. Brava. Ecco, allora, in questa considerazione non possiamo fare delle generalizzazioni troppo ampie su che cosa fa il nostro cervello sì. la mattina e la sera. Dobbiamo prima valutare noi che tipi siamo. Ma ad esempio i gufi tra le 12 e le 15 suggeriamo qualche attività in cui i gufi sarebbero particolarmente predisposti e la farebbero bene, così per le allodole. Beh, quello è un orario in cui grosso modo sono abbastanza tutti svegli, tutti, no? Anche perché dobbiamo lavorare, quindi. Dobbiamo lavorare, e allora io direi, tutto sommato, le allodole a quel punto sono già in piena attività, il mattutino alle 12 è ancora molto attivo, però forse ha bisogno di un piccolo break, un piccolo riposo, un riposino. Si è studiato recentemente anche l'effetto del riposino pomeridiano, anche molto breve, si è visto che in effetti funziona molto, soprattutto sul tipo mattutino, perché il tipo sì, mattutino, perché è sveglio da parecchio tempo. Mentre i gufi, che cosa mentre gli facciamo il gufo fare? Che i comincia gufi? A svegliarsi tardi dal punto di vista intellettuale, dico, no? E, sì. e a quel punto forse può anche farne a meno del riposino, magari potrebbe utilizzare più questo intervallo di tempo per fare dell'attività fisica. Ricordiamo che l'attività fisica è importantissima per tutti noi, per il nostro benessere. Quindi, se noi a quel punto, tipo gufo, facciamo dell'attività fisica in palestra oppure correndo, quello che vogliamo fare, e dopo però, attenzione, non saltiamo il nostro spuntino di mezzogiorno, perché sennò abbiamo consumato tutte le nostre riserve sì. di pomeriggio, non rendiamo più, insomma. Sì. E quindi questo può essere l'attività. Questo può essere il suggerimento, anche sì. prendendo spunto dalla cronobiologia. Professoressa Carandente, noi parleremo anche di pausa. Ci sono persone che non fanno attività sportiva, non mangiano, fanno altro. Ci sono delle indagini che hanno proprio, ci mettono i numeri alla mano. Intanto io la saluto, buona pausa pranzo anche a lei. Grazie. Buona giornata. Anche a lei, arrivederci. Dottor Speciani, allora proviamo a fare un break su misura, direi in funzione di quello che dopo la pausa pranzo ci aspetta. Se un impegno un pochino più manuale, più mentale, a volte il cibo da solo non basta, ci vuole altro, no? Magari un po' di relax, una passeggiata, due chiacchiere con gli amici, un massaggio, fantastico, l'ora di pranzo. Ma questa sarebbe proprio un lusso lusso. Regalo, eh? Un regalone, un esercizio di respirazione. Allora, inizierei per chi fa un lavoro sedentario e quindi sta tante ore seduto davanti al computer o in ufficio. Perfetto, in maniera super sintetica, pausa fatta con verdura, proteine, quindi ad esempio delle uova, dei gamberetti, del pollo, del tacchino, qualcosa del genere, cereali integrali che tengono basso l'indice glicemico, movimento, la pausa che diceva prima che era andente. Movimento, ok. Per chi... sì, no, sto pensando. Perché invece sta a proposito di movimento, si muove molto in macchina, ore e ore in macchina, cambia un po' la dieta, perché in macchina, soprattutto se facciamo, no, percorsi un po' monotoni, la palpebra. Qui c'è giù un obbligo assoluto, che è quello di evitare completamente lo zucchero. Cioè, lo zucchero che sia nascosto nell'aranciata, che sia nel caffè o simile, in realtà porta ad un'iperglicemia immediata e poi ad un momento di ipoglicemia. Quindi il classico biocco che ti coglie mentre sei in macchina, quindi con pericolo per te e per gli altri, quindi pochi carboidrati, mentre abbondiamo con la frutta, abbondiamo tranquillamente con delle proteine, tipo ma possiamo anche viaggiare talvolta, il fatto di avere a fianco un graspo d'uva di cui mangiare un acino ogni tanto, un po' di albicocche, delle fragole e delle noci, cioè delle situazioni. Le noci, a lei le noci piacciono molto, devo dire. Viaggiamo con le noci in tasca praticamente. È una fonte proteica che è a disposizione di tutti, ce ne dimentichiamo. Mandorle solo... anche. Noci, però. Mandorle, nocciole, pinole, pistacchi, cioè sono noi stiamo, quando pensiamo alle proteine tutti dicono mangiamo la mucca, ma no, ma per bacco ci sono mucche di proteine vegetali ottime senza bisogno di andare a dover far fuori animaletti, piuttosto che, cioè abbiamo a disposizione, poi facili da gestire, perché una bistecca in macchina nessuno se la mangia, mentre invece delle noci sgherigliate sono facili da sgranocchiare. Senta, invece per chi la pausa pranzo la usa un po' per lavorare, come riunione di lavoro, quelle sono terribili, no? Perché dunque, poi secondo me fa parte di un buono stile fare in modo che la riunione di lavoro possa dedicare il suo tempo ad altro. cioè uno dedichi il lavoro. Attenzione. Esatto, sì, lo so che stiamo sorridendo perché ci sono, sappiamo come va avanti la puntata toccando temi caldi, come si suol dire. Però ecco, in pausa di lavoro io ho usato le poche volte in cui è stato necessario, proprio consentire degli stuzzichini, quindi le noci, che così ti riprendo, dei pezzettini, dei dadini di formaggio, dei piccoli pezzettini di verdura, dei succhi di frutta, ma non filtrata, quindi con dentro tutta la loro cosa, per cui a quel punto è possibile spiluccare senza ovviamente dover però mangiando sia carboidrati sia proteine, sia magari dei grissini avvolti in un pezzettino di prosciutto, cioè consentire un bilanciamento di carboidrati e proteine sensato, come diceva prima Carandente, in modo corretto. Noi abbiamo Giulio che ci chiama da Como all'800240024 e spero ci racconti che cosa hai intenzione di mangiare oggi. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Dunque, io non faccio un'attività sedentaria, faccio sport e sono abituato da 40 anni a bere solo liquidi e mi trovo benissimo. Ma l'altra domanda che volevo fare è una domanda a lei che, come al solito, ogni tanto mette delle pulci maliziose. Ma perché, qual è l'altra attività? Altri durante la pausa pranzo, ma ci sono, Giulio, ci faccia volare anche a noi. No, Giulio, lei stia con noi, anzi intervenga nel corso della trasmissione, vedremo, perché ci sono tante persone che la pausa del pranzo la usano per fare altro. Giulio, lei stia con noi, si fidi. Ma lei come mai beve solo liquidi, scusi, Giulio? Perché sennò mi viene sonnolenza. Ecco, allora. Però fa una buona prima colazione, Giulio. No, assolutamente. Dai. Ah no, dai. Senta, e quindi però lei si sente assolutamente in forma dopo tutte. Ma sì, che cosa beve? Così, sì. Che cosa beve, Giulio? Liquidi, nel senso cappuccini, uno spremute, ma nulla di più. Bene, aggiunga qualche noce, faccio il dottor Speciani. Nuovo qualche sodo, mandorla. Nuovo sodo. grazie a Giulio. Dottor Speciani, vogliamo anche rispondere a una ragazza, Alba, che sta preparando gli esami e lei dice di io devo studiare, devo concentrarmi, non voglio perdere tempo, ho bisogno di energia. Perfetto, direi che è una domanda splendida, nel senso che qui il problema si si pone a partire dalla prima colazione. Per chi deve studiare, quindi ha bisogno di una concentrazione costante e continua, è indispensabile assolutamente che la prima colazione sia ricca, piena e soddisfacente, bilanciata con carboidrati e proteine, in modo tale che si mantenga per tutta la giornata una certa stabilità dell'indice glicemico. A quel punto è utile ricordarsi una pausa da fare ogni 45-50 minuti, riuscire a fermarsi per poter fare 4 passi è uno degli elementi più importanti. Ricordiamoci l'uovo sodo quando si mangia insieme a qualche cracker integrale, perché l'uovo sodo contiene proprio nel tuorlo degli elementi importantissimi per la funzione cerebrale. Allora, c'è una, direi, una pausa che faranno anche su gli sposi, non sarà una pausa come la nostra, sarà una pausa sontuosa, è quella di William e Kate, oggi sposi finalmente, e noi abbiamo qua in studio Marta Cagnola, a cui abbiamo chiesto di raccontarci che cosa mangeranno. Non sarà una pausa come le nostre, tanto più che sulle nostre pause pranzo, cara Nicoletta, mi sa che nessuno apre mai delle scommesse. Invece i bookmaker hanno aperto le scommesse. Wow. Ci sono le quotazioni, perché ovviamente ci sono solo delle indiscrezioni che sono state fatte dai cuochi che hanno conosciuto soprattutto il piccolo William negli anni. Allora, le giocate aperte sul piatto principale del ricevimento danno il manzo a quota 1,80, meno accreditate altre possibilità, dall'agnello 2,25 al pesce quotato solo a 11, il maiale addirittura a 17, quindi maiale sicuramente no. È molto probabile che saranno piatti a chilometri zero, anche perché vista insomma la predilezione del quasi suocero Principe Carlo per l'ecologia, è giusto che tutto sia a chilometro zero, con cucina tradizionale inglese. Allora, lo chef Mark Flanagan, cuoco del Palazzo Reale, sentite un po' cosa si è inventato come menù plausibile. Marta, mi piaci troppo, vai. Si vede quanto mi sto divertendo. Io sì, ma c'è tutta la redazione, dobbiamo dirlo che c'è tutta la redazione, fino a 2 minuti fa mi prendevano in giro. Sì. Adesso non riesco a vedere il matrimonio nel megaschermo perché accalcati tutti, io non lo so. Allora, sentiamo il menù: agnello alla menta, salmone, roast beef, bistecca al whisky. Come dessert sarebbe previsto il budino alla banana, mi sembra un po' pesante. No. Ma dai, il budino alla banana per pranzo. Comunque. Poi gran finale con 2 torte, la torta alla frutta multistrato con esposto lo stemma reale degli sposi e fiori simbolo delle nazioni del Regno Unito scelta da Kate, e la torta al cioccolato perché sarebbe molto amata dal principe William e creata secondo un'antica ricetta dei Windsor. Ovviamente io non vedo l'ora di avere questa ricetta per sperimentare a casa mia domani mattina, la torta al cioccolato. Dai, così facciamo finta di sposarci un po' anche noi. Ma sì, di in generale proprio di dottor Speciani, cosa ne dice di questo menù? Dunque. Di noci non le hanno messe. Non ci sono le noci e non ci sono le mandorle. No, però chi lo sa, magari nella ricetta della torta al cioccolato qualcosa è dentro, inserita. Sì, questo sicuramente. Direi che è positivo. Poi, la proverbiale leggerezza delle torte inglesi. No, assolutamente, sono etere e possono essere gestite da chiunque. Tra l'altro, Marta, tu ritorni? Ritorno, sì, anche perché adesso abbiamo visto l'arrivo di William, che aveva come previsto questa uniforme di colonnello delle Irish Guards, quindi tutto rosso e blu, ma senza il tradizionale cappello di pelo d'orso. Purtroppo non ce l'aveva. Ma sono molto carini, però. Molto carini lui, però avendo così pochi capelli, non so se forse questo cappellino di pelo d'orso poteva favorirne il look. Guarda che bell'acida, è tosta la ragazza, dai. Non lo so. Però allora alle 11:45 arriva la regina Elisabetta. Chissà. Qui io non vedo l'ora di vedere il cappellino, e a mezzogiorno saremo in diretta nel giornale radio perché dobbiamo fare la diretta dell'abito di Kate. Certo. Poi uno speciale alle 13:30, così vi racconteremo tutto. Fantastico, come essere invitati, no? Praticamente siamo noi siamo praticamente là, ci porta Marta Cagnola. Mercati, Peter Bescapè mi sta dicendo chiudi, mercati, meteo, e noi ci ritroviamo subito dopo. Insieme diteci che cosa fate, e così non dico altro, durante la pausa pranzo. Mangiate, fate sport, fate altro, come vi sentite dopo? Questa è la domanda di oggi. 800 24 00 24, viva gli sposi! Essere e benessere. Grazie, grazie. Gli mortacci loro. La verità, Gu, è che siamo del figo, che sono tre criminali. Ci stanno sempre a criticare che mangiamo troppo. Beh? Ci vanno a fare l'inglese che non sappiamo manco l'italiano. E Pasquina, che si vergogna pure il nome che gli abbiamo dato. Ci fa chiamare Bici. Oh, ti immagini Bici? Se ci vedesse adesso quello che siamo mangiato, ci metto a digiuno per tre settimane. Che dice Augusta? Ci facciamo un'altra mezza porzioncina per pappardelle? Certo che ce le facciamo. Se non altro per far dispetto a quei gran figli della mignotta. Cameriere! Cameriere! Guardi, la mia signora vuole ordinare qualcosa. Altre due pappardelle al sugo delle lepre. Le pappardelle al sugo di lepre. Dario, Vicenza, per il momento a Cuneo, mi scrive: sto guidando dalle 6 e visto che mi avete fatto venire fame, adesso mangio il mio panino col salame. Allora, parliamo con chiarezza di questo panino col salame. Intanto, quando abbiamo poco tempo, effettivamente teniamo presente che fare una prima colazione molto ricca, anche svegliandosi prima, questo lo dico perché condivido spesso le alzatacce che il signore sta raccontando, aiuta a gestire poi la fame e il senso di fame durante il giorno. Però facciamo un elogio anche del panino. Il problema del panino non è negativo in sé, la gente parla male del panino. In realtà, se noi avessimo un pane integrale buono, se ci mettessimo dentro delle verdure crude, fresche, quindi le foglie di insalata, delle fette di zucchina, non di quelle iper grigliate, eccetera. La zucchina si mangia affettata, cruda, buonissima, perfetta, sono fresche, nuove. Degli shaving di mela, ad esempio, che sono delle cose fantastiche. Usiamo il pezzettino per affettare il tartufo, che nessuno c'ha mai i tartufi, ce l'abbiamo tutti in casa. Usiamo per affettare la mela. Viene una roba buonissima, facile, gustosa, che insieme con del salmone, con qualcosa di questo genere, ecco che abbiamo pane integrale, proteine, due noci sempre, questo sì, lo dico la noce sempre, anche pinolini, voglio, eccetera. Assolutamente, e abbiamo un cibo, un pasto completo, bravo, sano, buono e gestibile. Vediamo chi di voi, soprattutto io vorrei sapere, oltre a cosa mangiate, anche come vi sentite dopo, perché è lì la prova del 9. Vediamo qual è il più stuzzicante tra di voi. 800 24 00 24. Si aspettano naturalmente ricette, perché il dottor Speciani ci sta dando prova di una grande abilità di culinaria, sempre questi abbinamenti sfiziosi, ma noi amici lo batteremo. Salvatore dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Eccoci, che mangia lei, Salvatore? Allora, io ho una gran fortuna di poter mangiare a pranzo a casa tranquillamente un piatto di pasta asciutta tutti i giorni, 50-60 grammi, non di più, quindi con un sugo, un soffritto di cipolla con un sugo di pomodoro. E poi però la mia grande fortuna è che poi subito dopo posso farmi un pisolino di una ventina di minuti. È l'invidia, Salvatore, che ci rode l'invidia. E lei sta benone. E io sto benone, però se non posso fare questo pisolino invece mi sento stanco durante il pomeriggio lavorativo. E certo. Volevo sapere se questo può andare bene subito dopo pranzo oppure... Va benissimo, se c'è un sonno spontaneo e c'hai lo spazio per gestirlo, benissimo. Mettiamo che lei invece abbia delle esigenze, tipo dover andare in macchina. A quel punto riduca la quantità di pasta, utilizzi tranquillamente insieme delle proteine miscelate, qualche gamberetto, le due noci che ormai stanno diventando il tormentone della giornata insieme ai due sposi, e questo consente di avere una situazione sicuramente più gestibile, probabilmente sarà meno sonnolento dopo. E a proposito di pisolino, bisogna saperlo fare, perché ci sono delle regole del buon pisolino. Si imparano con una canzone, facilissimo. La pennichella classica ha un suo cerimoniale, bisogna stare le regole, perché se no non vale. Il letto è sconsigliabile e il sonno la devasta, c'è la sedia a tondo o una poltrona bassa. A questo punto metti a cuccia il cane e accosta le persiane. Così si fa la pennichella, come insegna Nino Manfredi in questa canzone che si chiama per l'appunto Pennichella, e noi ne vogliamo parlare col dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottor Nobili. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ha detto tutto già Nino Manfredi. Ma è bellissimo, sì, assolutamente. Pensa che potrebbe utilizzarla lei anche per i suoi pazienti. Ma guardi, è una, io non la conoscevo, devo dirle, e dice le cose anche giuste, anche la durata è proprio conforme a quelle che dovrebbero essere le regole di una pennichella, che è una buona cosa la pennichella. È stato dimostrato che assolutamente serve non soltanto a riposarsi, ma a migliorare anche le nostre performance cognitive, quindi la pennichella dopo pranzo serve come? L'importante è non farla troppo lunga, in modo tale da svegliarsi comunque non in sonno profondo, e quindi allora in quel caso si pagherebbe il prezzo di essere un po' confusi, ma una pennichella di 20 minuti, 15 minuti, sì, è perfetta per essere in forma poi nel pomeriggio. Addirittura ci sono studi che dicono si prende il caffè ha una cinetica più lunga, quindi si prende il caffè, si fa la pennichella, quando ci si sveglia comincia a funzionare anche il caffè e quindi si va avanti molto meglio nel pomeriggio. Ah, quindi meglio il caffè prima della pennichella. Io quando la faccio il sabato e la domenica invece lo prendo dopo. No, adesso proverò. Se lei dorme 20 minuti, quando si sveglia il caffè comincia a funzionare, ha una cinetica più lunga. Fantastico. Quindi ha doppio effetto, capito? Dottor Nobili, la penserò sabato. Va bene. Prima della pennichella e il caffè, pennichella, ci svegliamo e siamo fantastici, in super forma. Grazie dottor Nobili per essere stato con noi. Giancarlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Che mi racconta Giancarlo? Dunque, io volevo chiedere qualcosa sul mangiare. Io sono un autista. Sì. E quando mi metto sul furgone viaggio dalle 24 alle 30 ore senza mai fermarmi. Mangio frutta, verdura, non so se va bene, diciamo. Ma Giancarlo, lei come si sente? Beh, io mi sento bene, però ho un piccolo problemino in questo momento. Che ho un'alluce che mi sta facendo impazzire. E allora, non c'entra la dieta con il con l'alluce? Ma dottor Speciani, magari una noce. Magari sì, 24-30 ore di fila sono tante, sono anche un po' al di fuori delle regole consentite. È vero che con i turni di riposo comunque obbligatori interni è questo, che danno più garanzia a lei e a te persone che sono intorno, però mangiare frutta e verdura può essere un buono strumento, cioè per chi deve mantenere un'azione prolungata, direi, di lavoro, il mio suggerimento è di mantenere frutta e verdura che effettivamente sono leggeri. Bisogna che lei introduca qualche proteina, a parte le noci ormai tormentose, però ecco, ad esempio due uova sode e sono facili da portare in giro, sono tenute bene, se non le espone alla luce solare, una giornata fuori con lei la fanno tranquillamente, ecco, che quindi diventa la possibilità di utilizzare delle proteine aggiunte alla frutta e alla verdura per tenere bilanciato l'indice glicemico. Questo le consente di avere meno sonno, di avere maggiore efficienza, di essere a posto. Sull'alluce ci sono un mucchio di relazioni tra alimentazione e fastidi artritici, ma bisognerebbe analizzare attentamente quello che le succede. Diciamo che per ora il suggerimento è quello di integrare un po' di proteine nella sua alimentazione e di fare le pause giuste almeno per riposare. C'è un problema che affligge molti di voi, ma lo state scrivendo, ed è quando dopo la pausa pranzo abbiamo la sensazione di essere fortemente appesantiti, ma c'è dell'altro. Quando la pausa pranzo torna su, in linea con noi abbiamo il professor Stefano Fagioli, buongiorno, direttore di gastroenterologia all'ospedale Riuniti di Bergamo. Buongiorno. Bentornato. Grazie. Senta, si mangia di fretta e spesso troppo, e a farne le spese è anche il nostro stomaco, no? Ci sentiamo appesantiti, insomma, l'abbiamo provato tutti. Il consiglio naturalmente è di limitare, di mangiare un pochino più di frutta e di verdura, insomma, di non farci proprio delle abbuffatone, anche perché poi ci viene sonno. Ma un problema che mi stanno raccontando i nostri ascoltatori è di questo spiacevole fastidio che noi, molte persone avvertono, del cibo che torna su. Professore. Certo, ma allora proviamo a distinguere le cose almeno in due o tre aspetti principali. Allora, ci sono delle cause legate a quella che chiamerei igiene alimentare, sì, cioè pasto troppo veloce, trangugiato in fretta, magari in piedi, magari facendo una riunione dove si parla un po' concitatamente, si mastica poco, cioè sono problemi molto, molto quasi meccanici se vogliamo, che però sono un ottimo motivo per poi pagarne le conseguenze. Il secondo è il tipo di pasto, se è un pasto particolarmente pesante, abbondante, soprattutto anche in termini di quantità, e questo ha il suo peso, ed è chiaro che poi dipende cosa si deve fare successivamente, perché se poi si fa la pennichella è ancora più difficile che questa cosa vada giù, è più facile che torni su come principio, ma anche se si fa un'attività fisica, a volte magari un pochino più impegnativa, beh, questo compromette la digestione, perché a quel punto il nostro organismo è strutturato per distribuire il sangue nei muscoli periferici che devono fare l'attività, e quindi c'è una difficoltà digestiva. Allora, per sapere che cosa fare e che cosa non fare, adesso andiamo a sentire insieme che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo subito dopo insieme, a tra pochissimo. Essere e benessere. Quando la pausa pranzo torna su, che cosa si può fare e che cosa si deve evitare? Mangiare di fretta, masticare poco, arrabbiature. Dottor professor Fagioli. Allora, abbiamo detto i motivi, diciamoli così, un pochino più tecnici. Poi invece ci sono delle condizioni o delle patologie specifiche nelle quali allora il dopo pranzo può essere complicato dal reflusso, da quella sensazione di acidità, che a volte è accompagnata anche da nausea o da gonfiore, ma non necessariamente, possono essere molto sfumate le cose, altre volte sono particolarmente fastidiose. Il reflusso non è altro che il passaggio a livello dell'esofago di contenuto acido che è normalmente nello stomaco. Questo non dovrebbe avvenire, avviene per un'incontinenza del punto di passaggio tra esofago e stomaco, è chiaro che una mucosa come quella dell'esofago, che non è fatta per ricevere l'acido, ne soffre. Sì, si irrita perché dice: che cosa ci fa qua? Esatto. Ecco. Allora, al di là della gestione farmacologica del reflusso, che se indicata è sempre gestita dal medico, in collaborazione con il medico e mai autoprescritta, bisogna che ci ricordiamo che ci sono alcuni alimenti che, stimolando la secrezione dell'acido, non fanno altro che peggiorare la cosa. E i principi sono tutte le cose che noi individuiamo come pesanti, come grasse, quindi i cibi grassi, la panna, il mascarpone, purtroppo il cioccolato, sono cose che stimolano la secrezione acida. Sì. E però tutte le cose molto saporite o molto stimolanti, come il succo d'agrumi, il pomodoro, la menta, le spezie, i fritti, le bevande gassate, sono tutte cose che possono stimolare una iperproduzione di acido. Il caffè in sé non sarebbe un grande stimolatore dell'acido, sono più le cere della torrefazione che stimolano. Però il risultato è che se il pasto contiene molte di queste cose e poi è seguito magari da una pennichella, direi che avere il reflusso è quasi... Diciamo che uno se l'è cercato, usiamo un sistema. L'altra condizione da non dimenticare invece è la stipsi, perché se c'è un intestino molto pigro, anche la capacità di svuotarsi dello stomaco ne risente. Sente. E quindi c'è questo senso di fastidio. Quindi qualità e quantità. Insomma, uomo avvisato, reflusso evitato, possiamo dire così. Grazie per essere stato con noi, buonissima Buona giornata. Insomma, abbiamo mangiato in pausa, alcuni mi scrivono: faccio attività sportiva, mi alleno. C'è anche una signora, Alba Chiara, che mi scrive: io mi faccio fare dei massaggi 3 volte alla settimana, ma c'è chi fa altro. E possiamo dire Galeotta fu la pausa? Andiamo. Secondo una ricerca di Rizza Psicosomatica, gli italiani preferiscono tradire in pausa pranzo. Lo studio, che è stato condotto su 1000 italiani, uomini e donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, ha messo in luce come almeno un adulterio su 3 avviene nell'intervallo lavorativo, tra le 12:30 e le 14:30. Altro dato significativo riguarda le tentazioni. Ne saremo vittime, in diversa misura, praticamente tutti. Chi spesso, 29%, chi abbastanza di frequente, 43%, chi ogni tanto, 17% o raramente, 9%. Ma quando si tradisce? Stando alla ricerca, capita tutte le volte che si incontra qualcuno di attraente, 32%. Dopo un litigio col partner, 24%. Tutte le volte che ci si sente particolarmente in forma, 17%. O quando ci si trova, per lavoro o per vacanza, lontano da casa, 8%. Insomma, non abbiamo parole, ma vogliamo commentare fare questa indagine insieme al professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, queste sono ore calde. Sì, sì. Sì, come mai? Ma dunque, io credo che prima di tutto va detto che insomma, queste ricerche sono, non sono ricerche, sono così dei, sì, dei dati che vengono raccontati per far parlare di un certo argomento, quindi sono divertenti per questo motivo, ma insomma, sì, non prendiamoli come dati scientifici. Ma una cosa è scientifica, è vera, ed è il fatto che sostanzialmente la pausa pranzo, cioè un momento di, come dire, di relax rispetto ai doveri d'ufficio, certamente galeotta. Perché? Perché è il momento in cui è possibile in qualche modo ritagliarsi quello spazio di intimità che è necessario perché si crei per l'appunto quell'adulterio da ufficio che è sostanzialmente la più frequente modalità di accedere alle corna. Nel senso che le corna sono tipiche del mondo del lavoro, c'è un motivo per questo, un motivo che è perfettamente conosciuto dal più grande maestro del romanticismo dell'Ottocento, che era Stendhal, che nel suo Dell'amour, in questo trattato sull'amore e sulla passione, dice una cosa che è estremamente poco romantica ma estremamente vera. Dice: ci si innamora, si mettono le corna, nascono le storie quando è possibile. Cioè, la molla fondamentale per la passione è una molla estremamente poco romantica, non è il colpo di fulmine, non è la congiunzione astrale, non è, ma è prima di tutto la possibilità. Ho nella stanza del ministero, dell'ufficio, della banca vicino una persona che potrebbe essere una persona, come dire, con la quale avere una storia, e quello è il primo motore, è il motore fondamentale. Un po' la comodità anche. Sì, è proprio la comodità, e perfetto, il termine che usa Stendhal è la possibilità. Ecco, io credo che questo sia assolutamente vero in realtà. Quando io vado, ascolto le storie dei miei pazienti con disfunzione sessuale, con disfunzione erettile, con eiaculazione precoce, le donne col vaginismo, le donne con l'anorgasmia, tutti poi alla fine mi raccontano quando hanno delle storie alternative, delle storie alternative rispetto alla vita coniugale, mi raccontano fondamentalmente che tutto nasce dal fatto che si incontra una dimensione possibile. Quello che si innamora del calciatore piuttosto che dell'attrice, quindi situazioni impossibili, chiaramente non avrà storie con queste persone. Sì, adesso che stiamo parlando di tradimento, mi sembra quasi stonato dire che sta arrivando Kate, no? E quindi meglio, però sta arrivando Kate. Oh, dottor Speciani, bisogna anche essere comunque, no? Il tradimento, forse per comodità, forse perché il professore ci ha spiegato diverse situazioni, ripescando anche Stendhal, ma... Bisogna essere in forma. Non è che vogliamo, proprio adesso che si sposano, non è che stiamo incitando al tradimento. No, quelli mi sembrano abbastanza in forma entrambi. E quindi, però ricordiamo tutti che per fare una pausa pranzo giusta, e anche per eventualmente per le disponibilità di cui ci parlava prima il professore, però verdura e frutta facciano parte comunque della nostra pausa pranzo. E scusate se lo dico, due noci che sono sempre utili nel contesto della giornata. Professor Iannini, lei è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Si fa bene l'amore tanto più quanto si mangia bene e si mangia giusto. La nostra performance sessuale è estremamente dipendente rispetto a quello che facciamo a tavola, quindi una pausa pranzo giusta, leggera, uno yogurt, qualche cosa di non pesante, è sicuramente il modo migliore, oddio, non per tradire. No, perché sennò... ma sicuramente per far bene l'amore. Grazie professor Iannini per essere stato con noi. E noi abbiamo Salvatore che ci chiama da Treviso, buongiorno. Buongiorno, io sono tipo anomalo. Allora, a casa mia c'è un'abitudine: quando si fa la cena, specialmente pasta asciutta, tortellini, quelle cose lì, mia moglie è ormai abituata che mi deve fare la colazione con quello della sera. Sì, la pranzo. Quindi si porta quello che a Milano dicono la schiscetta, no? Della sera prima diventa il suo pranzo del giorno dopo. Sì, quindi la pasta asciutta, per esempio, la prendo, la passo in padella, sì, e quella lì diventa la mia colazione. Oppure il minestrone, quello che c'è. La prima, quindi si alza con questi sapori belli decisi. Sì, infatti mia moglie tante volte mi dice mamma mia fai schifo, come cosa stai mangiando? Io gli dico fai schifo tu, guarda cosa bevi, un caffè. Bravo, io faccio il tifo per questo signore. Sì, devo dire... Allora ieri sera purtroppo ci hanno regalato delle uova, di conseguenza abbiamo fatto la frittata, stamattina filini in brodo. 5 minuti si fanno e via. Allora, Salvatore fa una colazione, devo dire, robusta. Assolutamente, ha tutte le mie difese. La prima colazione robusta, eventualmente proprio anche con i carboidrati usati la sera prima, le proteine usate preparate, significa dare all'organismo uno stimolo di ricchezza e di creatività. Tra l'altro, contrariamente a quello che si pensa, una prima colazione molto ricca aiuta il dimagrimento. Quindi stimola proprio la forza del metabolismo, è come se il corpo dicesse sono ricco, posso consumare. E questo avviene in maniera positiva. Grazie per essere stati con noi, vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend, dottor Speciani, noi ci sentiamo presto e noi invece torniamo insieme lunedì dopo il GR delle 11. Essere e benessere.